mi faccio comandare, baby B. Volano per aria gli asini, fammi dei discorsi validi. Tu non fai canzoni, anzi mi, anzi no, anzi boh, anzi sì, eh. La musica italiana è morta, condoglianze. Tutti lasciano le palle nelle mutande. Tutti vincono le guerre dentro le stanze. Qualcuno dica cosa serve, vi dico grazie. L'educazione non la danno i genitori. Forse i pesciolini rossi fantagenitori. Entro in discoteca, butto fuori, butta fuori. Questi trapper sono copie, sempre tutto uguali. Oui oui, fatto serata, oui oui. La luna piena, oui oui. Sei fidanzata, oui oui. Usciamo a cena, oui oui. Rispondi sempre, oui oui. Non cambia niente, oui oui. Educazione, oui oui. A cosa serve? Oui oui, oui oui, oui oui, oui oui, oui oui, oui oui, oui oui, oui oui. Non potrai più farne a meno di cantare sta canzone. Ed ogni nuova negazione non ci sarà più. Per restare un po' la moda e diventare un bravo trapper, già richiedo l'aiuto dell'autotune. Ho scritto 3000 canzoni con zero considerazioni, perché nella vita il talento è figlio del tempo. Ma arriva il momento in cui la cicala continua a cantare canzoni di merda, mentre l'amica formica da sempre delizza raccoglie questi semi piantati da tutta una vita. Ho fatto un talent, son durato meno di una sera. Eravamo solo amici, niente relazione seria. Oh Maria, Maria, non è filosofia. Oh Maria, Maria, è tutta frenesia. Oui oui, fatto serata, oui oui. La luna piena, oui oui. Sei fidanzata, oui oui. Usciamo a cena, oui oui. Rispondi sempre, oui oui. Non cambia niente, oui oui. Educazione, oui oui. A cosa serve? Oui, oui. È così bella che non posso farne a meno di pensarci e naufragarmi dolce in questo mare. La discografia italiana è come una puttana, ti sostituisce meno di una settimana. Come un déjà vu, come un déjà vu, come un déjà vu, come un déjà vu. Oui oui, fatto serata, oui oui, la luna.